Siamo qui al telefono con Irene Frascari, consigliera di Wildm Bo. Buongiorno Irene, benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno, un saluto a tutti e a tutti i vostri ascoltatori. Siamo qui per parlare un po' del servizio civile, perché è stato aperto il bando giovani, appunto per il servizio civile, che tra l'altro finisce anche tra poco, quindi siamo giusto in tempo per parlarne. E ti volevo chiedere, per chi magari non conoscesse questa realtà, che cos'è il servizio civile e come si svolge da voi? Sì, il bando attuale, i ragazzi del bando attuale finiscono il 24 maggio, quindi si è aperta la nuova fase per il prossimo anno. Il servizio civile è ormai è una realtà che è da tanti anni a livello nazionale che esiste e permette a ragazzi tra i 18 e i 28 anni di fare esperienze in diverse realtà. Presso associazioni e enti, delle esperienze che portino loro anche un bagaglio culturale personale e che li aiutino in una crescita personale, per il loro futuro lavorativo e anche, per le scelte che faranno nella loro vita futura. E allo stesso tempo permette a realtà, quali enti e associazioni come la nostra, di mettere in pratica, di svolgere delle attività che vanno a beneficio di tutte, le persone a cui si rivolgono. Le associazioni, nel nostro caso, noi ci rivolgiamo a persone che hanno una malattia neuromotoria e quindi una disabilità che ne consegue. Il servizio civile alla WildM praticamente consiste in diverse attività, linee di azioni, in particolare all'assistenza domiciliare o extradomiciliare, un'assistenza personalizzata, non specialistica, ovvero anche solo fare compagnia alla persona oppure aiutare la persona ad eseguire quelle attività, a fare quelle cose che normalmente non riuscirebbe a fare in modo completamente autonomo e quindi anche a sollevare un po' dal carico e i caregiver della persona, perché di solito i caregiver sono poi le famiglie della persona che ha questa problematica. È un momento di incontro e di aiuto in cui tutti comunque guadagnano un brutto termine, in cui tutti imparano qualcosa e crescono. Certo, in cui tutti ricevono qualcosa, diciamo, La no? persona aumenta la sua autonomia, aumenta i suoi momenti di autonomia e quindi è importante, molto importante per la persona che ha questo tipo di disabilità e per l'operatore perché si rende conto e apre gli occhi su delle realtà che sappiamo che esistono, ma finché non le tocchiamo con mano non ci rendiamo conto anche solo dell'ambiente intorno a noi quanto può influire sull'autonomia o meno di altre persone. Certo, assolutamente. L'attività sempre in questa linea sono anche il trasporto, quindi l'accompagnamento in momenti un pochino più specifici, tipo fare, non so, le visite mediche, accompagnare al lavoro, però un trasporto che non sia solo prendo la persona e la carico nel mezzo e poi la faccio scendere, ma anche proprio, non so, aiutare a mettere la giacca, togliere, a sistemarsi in un posto quando ci si arriva, metterla in condizioni di fare quello che deve fare, insomma. E un minimo anche di presidio nel punto informazione all'area che abbiamo quando ovviamente la situazione pandemica lo permette. Vogliamo dare anche qualche magari informazione tecnica, sempre per chi Sì. conoscesse poco questa possibilità, ecco, quindi a chi è rivolto, quanto dura? Allora, è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni, dura 12 mesi, la scadenza del bando è il 26 gennaio, quindi la prossima settimana alle ore 14. E ci si può iscrivere attraverso il sito del Servizio Civile Nazionale che si chiama https://domandaonlineserviziocivile.it. Lì si entra con lo SPID, si sceglie il progetto di servizio civile per cui si vuole fare domanda e si segue la procedura guidata. Questo per quanto riguarda la parte tecnica dell'iscrizione. Sulla durata, come ho detto, sono 12 mesi, sono molte ore annuali per quanto riguarda il nostro progetto di 1145 ore, che però prevedono al loro interno anche tutta una parte di formazione, ovvero sono previste più di 100 ore di formazione generica su temi di cittadinanza attiva e operatività sociale che è effettuata dalla UNB nazionale e poi 72 ore di queste ore di formazione le eseguiamo invece noi come associazione a livello locale, formazione volta a permettere ai volontari di svolgere questa attività di cui ho parlato prima. Oltretutto, una volta terminato il periodo di formazione, quando si tratta di iniziare la vera e propria attività, così dire, non mandiamo allo sbaraglio, ma c'è un affiancamento effettuato dalla nostra assistente sociale e dai volontari uscenti che terminano il servizio civile, un affiancamento nell'iniziare proprio l'attività, nel conoscere le persone con cui i volontari interagiranno e così via. Inoltre le ore di servizio civile comprendono anche 22 ore di tutoraggio e orientamento al lavoro, eseguito sempre dal nazionale, in cui non so, si daranno, sono in parte colloqui di gruppo, in parte colloqui privati, in cui daranno una mano a, non so, delineare curriculum vitae, simulazione di colloqui, insomma c'è anche tutto questo, attenzione per, è un progetto articolato, attenzione per i volontari, anche un po' quello che farà dopo. E come in sé orario, diciamo che a livello settimanale saranno sulle 25 ore settimanali, da dividersi in 5 giorni, su 5 giorni. 2 giorni sono sempre di riposo e sono previste nell'arco dei 12 mesi anche 20 giorni di permesso. Perfetto. Insomma, Irene, devo dire che tante cose da fare, tante esperienze che appunto i ragazzi e le ragazze più giovani possono fare tramite il servizio civile all'interno della vostra associazione ULDM di Bologna. Esatto. E ci sono persone interessate che vogliono maggiori informazioni, io posso fornire anche i contatti diretti della nostra associazione, dove potremmo rispondere a qualsiasi altro dubbio. Quindi se qualcuno è interessato può scrivere a info@wildmobo.org oppure chiamare il 329 93 95 384, oppure può cercare informazioni sul nostro sito internet, che è www.wildmobo.org, o anche il sito internet della WILD nazionale dedicato al servizio civile, che è www.quantoseiutile.it. Perfetto Irene, io ti ringrazio veramente per averci raccontato qualcosa di più su che cosa vuol dire il servizio civile, ma soprattutto cosa vuol dire farlo proprio all'interno della WILDM di Bologna. Grazie ancora Irene. Io vi ringrazio e spero che molte persone decidano di venirci a provare, venirci a conoscere.